possano le vostre fontane gettare denaro al posto dell'acqua. E non vi deluderò, non vi deluderò! Maledetti, siate maledetti per aver venduto Eric Lamela al Tottenham! La lupa ingoierà il sole e ciò apparirà agli uomini una grande sventura. Le stelle cadranno dal cielo, la terra intera tremerà, gli alberi si sradicheranno dalla terra e i monti rovineranno e tutti i vincoli e le catene si spezzeranno e si infrangeranno. Allora la lupa sarà libera. Maledetti! Maledetti! Sarete schiacciati nella polvere come dei vermi! Maledetti! Altre Rome verranno. E io non so immaginarne il volto, ma avrò contribuito a formarlo. Roma vivrà. Roma non perirà che con l'ultima città degli uomini. Quali delle città visitate è piaciuta di più a vostra altezza? Ognuna nel suo genere è indimenticabile. Tuttavia potrei dire Roma. Sì, Roma, senz'altro. Il ricordo di questa mia visita non mi abbandonerà, fin tanto che vivrò. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Adesso devo proprio andare. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ascoltate Cartoline a Roma di Gianni Farina e Consuelo Battiston. Regia Gianni Farina con Consuelo Battiston. Progetto sonoro Mirto Baliani. Raccolta del materiale, interviste, traduzioni Beatrice Buzzi e Ludovico Orsini Baroni. Voice over Luigi Dadina. Con Gianni Farina della compagnia Meno 20 per parlare di Ascoltate Cartoline a Roma. Gianni, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Raccontiamo, descriviamo un po' questo spettacolo. È il primo episodio di una serie che si chiama appunto Ascoltate, che è dedicata ad alcune città e territori italiani. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla Romagna e si chiama Ascoltate Romagna Relax, ma Roma, appunto, Cartoline a Roma inaugura questa serie, è inaugurato nel 2015 all'interno di Teatri di Vetro. È una serie che utilizza un metodo, diciamo, di composizione inedito per noi, perché la drammaturgia è frutto di una selezione di materiali che non sono nostri, cioè sono interviste che abbiamo fatto ai turisti stranieri in vacanza a Roma. Abbiamo chiesto molte cose sulla città che li stava ospitando, quindi abbiamo dei fruitori di passaggio con tutto quello che comporta, quindi con una visione a volte superficiale, comunque sicuramente molto veloce della città, proprio per cercare di capire l'impressione del primo impatto su di loro. Abbiamo scelto una categoria particolare che sono i turisti stranieri per motivi formali, perché diciamo queste voci ci sono un po' tutte le lingue del mondo, si accavallano e creano una polifonia molto musicale di lingue strane, sovrastate, diciamo, o alternate alla voce invece di Consuelo Battiston, che restituisce invece alcune frasi tradotte in italiano da Ludovico Orsini Baroni e Beatrice Buzzi, che mi hanno anche aiutato a fare interviste. Abbiamo scelto gli stranieri anche perché spesso, come abbiamo poi toccato con mano, sono meno consapevoli delle dinamiche interne della città e anche dell'Italia in generale, dalla politica alla situazione sociale ed economica. Diciamo, hanno uno sguardo più ingenuo e proprio per questo più interessante, con le dovute eccezioni ovviamente. Per concludere la panoramica aggiungo che abbiamo innestato le voci, o meglio le parole, di alcuni viaggiatori che hanno visitato la città in tempi antichi, viaggiatori illustri, penso a Goethe, Stendhal, Fellini ed altri, quindi anche, diciamo, abbiamo i turisti stranieri anche di qualche secolo fa. Artisti comunque. Sì, prevalentemente artisti, le cui parole risuonano attualissime tutt'oggi. Ci piaceva, insomma, restituire anche questo tuffo nel passato, queste voci, questi fantasmi del passato. Il tutto è orchestrato da Mirto Bagliani, che ha curato anche l'editing audio per la versione radiofonica, che diciamo ha fatto risuonare queste voci musicalmente. Gianni, quante sono le interviste inserite nello spettacolo? Allora, precisamente non mi ricordo, perché è passato un po' di tempo e nel frattempo abbiamo fatto anche l'appuntamento romagnolo, però mi sembra 180, qualcosa del genere. Quindi sono moltissime, ovviamente noi le abbiamo selezionate, c'erano molte ridondanze che abbiamo tagliato, quindi non sentiremo 180 voci, ma ne abbiamo fatte così tante, per ottenere un panorama molto ampio. Che impressione hai ricavato da queste parole? Cito una delle frasi che quasi concludono lo spettacolo, che mi ha colpito molto, che per me è la più importante, direi. Una persona ha risposto: ricordatevi, cari romani, che la vostra città è meravigliosa, voi lo dite sempre, ma forse non l'avete capito davvero del tutto quanto è meravigliosa, e soprattutto ricordatevi che questa meraviglia, questa bellezza è sotto la vostra responsabilità. E questo forse è una cosa che i romani non sempre si ricordano, i romani, come credo che la stessa cosa valga in altre città italiane, ma questa meraviglia unica di Roma va tutelata, non parlo solo di paesaggisticamente, architettonicamente, ma anche dal punto di vista umano, va tutelata. A partire dal basso, insomma. A partire dal basso, e i romani lo dico sempre che la loro città è la più bella del mondo, però forse non hanno capito quanto è bella. Per me che non sono romano forse è più facile avere cadere vittima della sindrome di Stendhal quando vengo a Roma, e a volte mi chiedo se i romani la capiscono fino in fondo questa bellezza, perché ce l'hanno tutti i giorni sotto gli occhi. E poi questa questione della responsabilità, questa frase racchiude un po' molte cose. Detto questo, ci sono punti di vista anche molto discordanti, poche situazioni vengono vissute all'unanimità, diciamo un po', forse a parte i ritardi dei mezzi, gli scioperi numerosissimi, questo viene condiviso un po' da tutti, il resto abbiamo visioni molto contrastanti anche. Gianni, voi sarete a Roma il 17 e 18 novembre all'Angelo Mai con un nuovo lavoro, ce ne parli un po'? Volentieri, si chiama Docile, è la prima volta che va a Roma, è un lavoro completamente diverso, qui c'è una ideazione, una drammaturgia, diciamo, completamente nostra, che non pesca da nessun altro, se non come riferimenti, ma poi il testo è tutto nostro, ideato da me con Silvio Battiston, ma come sempre noi utilizziamo la scrittura scenica come parte della composizione drammaturgica, e quindi c'è anche sicuramente il contributo di Andrea Argentieri, che è in scena insieme a lei. Diciamo, è uno spettacolo che parla di remissività. Un po' la teoria di fondo è che ci sia una sorta di remissività che viene tramandata soprattutto, non solo ovviamente, ma soprattutto dai genitori ai figli delle classi subordinate, cioè coloro che hanno un capitale economico e quindi di conseguenza un capitale culturale più povero. C'è una sorta quasi di servilismo indotto da questo meccanismo. Ci parli anche un po' dell'esperienza Meno 20? Attraverso le due serie che abbiamo creato ultimamente, una appunto Ascoltate, l'altra è il progetto Survivre, realizzato in collaborazione con la compagnia francese Pardès Rimonim, abbiamo toccato territori, modi, metodi diversi dal nostro abituale metodo di lavoro. In ogni caso, generalmente ciò che ci piace fare è mescolare diversi piani della rappresentazione. Cito due lavori che lo fanno, che portano queste conseguenze all'estremo, sono L'uomo della sabbia e Perdere la faccia, ad esempio. Abbiamo diversi livelli della rappresentazione che hanno diverse regole del gioco e lo spettatore deve cambiare continuamente il proprio ruolo, perché cambiano continuamente le regole del gioco, e questo produce, a nostro parere, una sorta di labirinto di contesti in cui perdere un po' i punti di riferimento del gioco. Alla fine il gioco si sfascia, si distrugge a causa di questo continuo passare da un piano a un altro. Allora, per saperne di più sulla vostra attività, ci lasci anche tutti i riferimenti web? Certo, c'è un sito www.meno20.com, una pagina Facebook. Vorrei aggiungere che un'altra caratteristica del nostro lavoro è l'utilizzo di una componente ironica, non sempre palese, a volte più sotterranea come indocile, però diciamo che troviamo nell'ironia un modo per scaldare la sfida dello spettatore, diciamo così. Senti, di docile che ci dici sulla genesi dello spettacolo? Diciamo che per la prima volta abbiamo realizzato uno spettacolo che ha una forte componente autobiografica. È la prima volta e quindi ci siamo messi molto in gioco, io e Consuelo. Non è importante che si sappia, che si percepisca durante la fruizione dello spettacolo, però la genesi è questa. Noi apparteniamo a una classe decisamente subordinata e i nostri genitori avevano un capitale culturale decisamente basso, parliamo di terza elementare, quarta elementare, quindi semi analfabeti, e quindi questo rimpallo tra me e Consuelo, ci siamo scelti forse anche per questo, come compagni di vita e di avventura sul palco, avevamo voglia di confrontarci, non di esorcizzare, ma di confrontarci con questa questione, e abbiamo ideato la figura di Linda Barbiani, che diciamo è un po' un mix fra noi due, e Andrea Gentieri fa tutto il resto del mondo che ci circonda. Diciamo, abbiamo approfondito queste tematiche leggendo soprattutto Don Milani e Bourdieu, in particolare La distinzione, ma abbiamo preso come riferimento anche Pasolini, il cinema dei Dardenne, Kaurismäki sicuramente, e molti altri, Bobbio. Comunque riferimenti letterari o cinematografici. Esatto, non teatrali. Non abbiamo, come al solito, non partiamo dal teatro, poi quello si fa, ma non è mai un punto di partenza per noi. Bene. Lo spettacolo Docile all'Angelo Mai a Roma, 17 e 18 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Gianni Farina della compagnia Meno 20. Gianni, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Viva il lupo, ci vediamo. Ciao. Ciao. L'agenda della settimana teatrale. Con il musicista Pigi per presentare il prossimo rave teatrale di Voci nel deserto, frammenti di libertà di pensiero, a Roma, a Luigi Il, venerdì 16 novembre.

Bene, allora ricordiamo l'evento Esoteric Arte di e con Elio Grifò, che è anche autore del libro omonimo, con la partecipazione del professor Pier Giorgio Odifreddi a Roma, al Teatro Sala Umberto, lunedì 19 novembre. Elio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a voi, grazie, buon lavoro. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per occuparci della settimana teatrale romana e non solo. Ciao caro! Occupiamoci! Sì, ci occupiamo, assolutamente. Quando è necessario, bisogna occuparsi delle cose, altrimenti vanno perdute. Dove andiamo? Allora, andiamo in un po' di luoghi questa settimana. Sempre un ritorno strano, in cuffia si dice in genere, però in questo caso non c'è una cuffia. Allora, dunque, andiamo intanto sicuramente al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ho la voce del Papa al momento. Andremo a vedere il lavoro di Valentina Marini, curato da Valentina Marini per la stagione di danza del Teatro Quarticciolo, perché di Piazzetto il 18 novembre sarà l'occasione per vedere questa compagnia tedesca In Company con Emanuele Soavi e la compagnia Excursus in Doc. Vedremo questi lavori al teatro Quarticciolo. Il primo, quello di In Company, un set fisico all'interno di un appartamento privato che sarà nel quartiere Quarticciolo, proprio all'interno di una delle case del quartiere, che si chiama Anima, ed è in prima nazionale. Sarà per i diritti spettatori e inoltre in un percorso come un film noir di fronte a uno scenario tra realtà e sogno. Infatti questo progetto. L'altro si chiama Nuovi Stimiti della compagnia Excursus, di con la coreografia di Valerio De Vita, ballerà con Montichirico Ron, Erlanz e Ritter, e due persone si incontrano, si innesta così un'alchimia di contraddizioni e complicità che porta ad uno stravolgimento interiore. Quindi nel contatto della relazione tra le due persone ci sarà il lavoro di due uomini finiti di compagnia Excursus. Ricordo, 17-18 novembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Procediamo perché abbiamo ancora la sala 1 fino al 18 novembre questo lavoro di Anton Giulio Calenda che si chiama Generazione XX o 20, ma credo sia più che altro XX, ed è appunto un lavoro che era già in scena nei giorni precedenti, e vedo un lavoro di maschere piuttosto intrigante sul piano scenico, una ricerca sulla concrezione delle dinamiche postmoderne di produzione di immagini e stereotipi comportamentali che vanno a plasmare l'esistenza delle nuove generazioni. Quindi oltre alla generazione X abbiamo la generazione XX al Teatro Sala 1 fino al 18 di novembre. Allora, invece al Teatro Sala Umberto dal 13 novembre fino al 25 è l'occasione per vedere questo testo di Vincenzo Manna che si chiama La Classe, la regia di Giuseppe Marini è un grande regista italiano, un pochino in appannamento ma di grandissimo livello per quanto mi riguarda. I giorni di oggi abbiamo la cittadina europea in forte crisi economica, c'è disagio, conflitti, criminalità, ed è questa la struttura quotidiana di questa sorta di decadimento totale, inarrestabile. Peggiora la situazione per fuori della città, lo zoo, uno dei campi profughi più vasti del continente. È in questo contesto che la Classe si va a muovere. 13-25 novembre Giuseppe Marini dirige la Classe di Vincenzo Manna. Poi, sì, eccolo qua, ancora scena lo spazio 18 blu, il lavoro ideato da Lorenzo Salvetti, lui e lei nell'ambito dei segreti della Camera Rossa, che appunto è la Camera Rossa, che è una collana di questi comici dell'8 e 900. Una moglie e un marito sui generi, un padre ambiguo che si è dimenticato il nome di sua figlia, una terribile amante che tradisce il compagno. E insomma, ci sono un po' di personaggi presi dal teatro comico dell'8 e 900 e in scena fino al 25 novembre allo spazio 18B. Poi dovrebbe il lavoro di sposi di Frasino Timpano essere in scena al Teatro Quarticciolo. Il 14 di novembre gli sposi, che ha a che vedere con questa ordinaria coppia di potere, Causesco, con la sua moglie Elena Petrescu, che insomma, è il dittatore della Romania e ha vissuto anche la Romania per 80 anni, sarà in scena al Teatro Biblioteca Quartucciolo il 14 novembre, in data purtroppo secca, e questo non ci deve sfuggire. Poi ti porto al Teatro Eliseo, dove nella Sala Grande c'è ancora in scena Stefano di Bergerac, di Barbareschi, ma va bene. Mentre invece debutta questa settimana, dal 15 novembre fino al 2 di dicembre, il giorno del mio compleanno, So Here We Are, di Nick Norris e la regia di Silvio Peroni. Silvio Peroni da sempre si occupa di drammaturgia anglofona, in questo caso è una storia che ha a che vedere con un decesso, Planky è morto e nessuno è sicuro del perché, ma i ragazzi non ne parleranno, non possono, forse ci sono alcune verità che non vogliono condividere. Questo è un testo che è stato scritto da questo 28enne Nick Norris ed è vincitore del premio Buzzfeed nel 2013 per Play Writing, e gira attorno al decesso di questo Frankie. Vedremo insieme al Teatro Piccolo Eliseo dal 15 novembre al 2 di dicembre. Cos'altro, Federico, ci resta di importante da segnalare? Sicuramente di andare al Romeo Europa Festival, dove andremo a vedere di certo Red Kids, che è il programma per i bambini che proprio la scorsa settimana è iniziato, presenta durante il weekend, sono tre weekend, durante il weekend delle cose mirabolanti, segnalo questo lavoro francese e delle teatre di Tarabat, la Fulvi, 16-18 novembre al Mattatoio per vedere questo lavoro dei 18 mesi ai 3 anni, uno spettacolo di burattini con questi pupazzi che sono andati a ispirare ad un libro omonimo di Claude Bouillon. Una spiaggia e il cielo blu, le mani si sistemano in un angolo carino di terra, tutto va bene, ridono e giocano insieme, ma pian piano le cose si complicano e finiscono per litigare. Questo è il lavoro che andremo a vedere al Mattatoio per Kids. Ma ti segnalo che anche per il programma dei grandi c'è qualcosa di importante, perché 13-15 novembre il grande ritorno di due straordinari protagonisti, Mimmo Cudicchio e Virgilio Sieni. Mimmo Cudicchio, uno puparo straordinario, Virgilio Sieni, un coreografo, danzatore, saranno in scena insieme per questo lavoro che si chiama Nudità, 13-15 novembre al Teatro India. E un incontro incentrato sulle naturali articolazioni delle braccia, delle mani, delle gambe e dei busti. Quindi il burattinaio e il coreografo si incontrano esattamente a metà del proprio lavoro, cioè con il corpo. 13-15 novembre, Nudità al Teatro India di Roma. Poi ci sarà anche l'occasione di vedere il lavoro di Anagor, e Smalti Pietà, Artemisia Gentileschi nel Mostri del suo tempo, 14-15 novembre, questo lavoro di Anagor un po' particolare, legato anche al video e non solo alla musica, chiaramente con Artemisia Gentileschi, che è stata un'attrice straordinaria a cavallo tra 500 e 600, che era l'epoca di Caravaggio, e anche lei, insomma, tra Roma e Napoli ha creato, e è un lavoro multimediale di musica dal vivo e video arte dedicato a questa pittrice. Lo andremo a vedere 14-15 novembre al Mattatoio. Ti segnalo, te lo dico, soltanto ancora due cosine. La prima che ti segnalo è Trend. Trend è la finestra sulla drammaturgia britannica, che è altro teatro belli. In questo caso è Not Enough Again, di Kerry Squerch, quella di Jerry Giulia, 13-15 novembre al Teatro Belli, appunto, ed è un lavoro che ha naturalmente, per Giulia P è un passo avanti nella drammaturgia di Kerry Squerch, di cui sta lavorando da un po', c'è una Londra del futuro che chiamano Le Londre, non è francese, Le Londre, allora è semplicemente il plurale, si vive solo in monolocali in mezzo all'inquinamento, sembra un racconto di Paul Ballard, manca l'ossigeno e lo compra solo chi se lo può permettere. Questa è la Londra distopica di Kerry Churchill, che andremo a vedere dal 13 al 15 novembre a Trend. Sempre a Trend, il 16 di novembre debutterà questo altro lavoro, All the Things I Like About, di Kathy Monna, con Elisabeth Odetta Marino nella regia di Alessandro Tedeschi, 15, 17, 18 novembre per questo lavoro ancora di drammaturgia britannica. Pensate all'ultima volta in cui avete mentito, una bugia piccola, insignificante, deve essere stato recentemente, forse oggi, o ieri. Sulla bugia lavora questo testo di Katie Bonna, che andremo a vedere il 15-18 novembre al Teatro Belli. Ancora sabato invece al Monk torna Ugo, questa drammaturgia femminile che da un po' c'è un gruppo di lavoro che porta questa sorta di spettacolo contenitore di necrosi metropolitane, polemiche, spicce, invettive asociali, riflessioni cosmiche, battute non identificate. Ugo fa ridere, tanto ridere, commuovere, non fa però piangere. Attenzione, perché non andiamo a piangere a Ugo. Il settimo episodio di Ugo, il 17 novembre alle 21 al Monk. Ultimissimissima è sempre di Romeo Locatelli. L'ho lasciato per ultimo perché forse è il lavoro che più mi stimola per questa settimana, ed è il lavoro che sarà in scena al teatro dell'Auditorium Aperto della Musica, in Sala Petrassi. Il lavoro cioè che la compagnia OHT, Office for Human Theatre, ha dedicato alla musica di Arvo Part, in un ambiguo rapporto tra uomo e natura. Nel paese alto vicino di Curon, sommerso nel 1950, di cui oggi non è rimasto più nulla, si vede un campanile che spunta dall'acqua. In scena si sta questo intreccio delle immagini del campanile e la musica del celebre compositore, della tragedia che ha coinvolto, diciamo, questo paese interamente sommerso dalle acque. Questo da assolutamente non perdere il 17 novembre, Curon, al teatro del Parco dell'Auditorio del Parco della Musica, in Sala Petrassi, per OHT con la musica di Arvo Pärt. È tutto, Simone, un abbraccio, alla settimana prossima. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.